Yours was this. Sentite, d'ora in avanti niente più Guns N' Roses e Soup Dragons, capito? Vi voglio a dieta stretta di Soul, James Brown a colazione, Otis Redding a pranzo, Smokey Robinson a cena e Aretha per gli spuntini fuori pasto. Il Soul ha il ritmo del sesso e anche il ritmo della fabbrica, ha il ritmo dell'operaio, del sesso e della fabbrica. Il soul è musica che il popolo capisce. Certo, è musica semplice, ma ha qualcos'altro, qualcosa di speciale. È onesta, ecco, è sincera. Non è musica stronza. Ha il coraggio di dire che viene tutto dal cuore. Certo, c'è un sacco di musica che dà piacere, ma il soul dà più di questo. Il soul ti porta lontano, ti afferra per le palle e ti tira fuori dalla merda. Bentrovati a questa ottava puntata di Soul Time qui su Radio Wombat, ottava puntata della seconda stagione di Soul Time, la trasmissione che si occupa di musica soul con un occhio di riguardo al Northern Soul. Iniziamo questa puntata con una cantante di nome Betty LaVette. Betty LaVette, che è nata nel Michigan ma cresciuta a Detroit, una cantante che, a differenza di molti suoi contemporanei, lo abbiamo detto tante volte qui a Soul Time, ebbene sì, lei non ha iniziato a cantare in chiesa, ma in realtà nel salotto dei suoi genitori. Poi già nel 1962, all'età di 16 anni, incise il suo primo singolo, My Man, He Is a Loving Man. Entrò poi subito nell'Atlantic Records e partì subito con un tour con diversi musicisti di rhythm and blues come Clyde McPatter, Benny King, Barbara Lynn e addirittura una nuova voce, quella che era una nuova voce per l'epoca, un certo Otis Redding. Questa sera vi propongo di Betty LaVette questo brano del 1968 che si intitola I Just Dropped In What Condition Is It, brano famoso ai più per essere nella colonna sonora del film Il Grande Lebowski, brano che all'epoca era interpretato da Kenny Rogers and the First Edition, poi reinterpretato anche dalla grandissima e compianta Sharon Jones su etichetta Dapton. Io invece questa sera vi propongo appunto Betty LaVette su etichetta Karen, 1968, I Just Dropped In. Woke up this morning with the sun down shining in. Found my mind in a brown paper bag within. Patti LaBette con I Just Dropped In To See What My Condition. Il prossimo brano invece è di Willie Mitchell. Abbiamo già ascoltato Willie Mitchell qui a Soul Time, una grande figura della black music statunitense. Willie Lawrence Mitchell, nato nel 1928 e scomparso non troppo tempo fa, nel gennaio del 2010. Willie Mitchell è stato un produttore e arrangiatore di fiati, un band leader di musica R&B, rock and roll, pop e funk, che gestiva i Royal Studios a Memphis nel Tennessee, noto soprattutto per la sua etichetta High Records degli anni 70, che pubblicò diversi album di grande successo di tanti artisti soul di Memphis, tra cui lui stesso, Mitchell, ed altri grandissimi come Al Green, Ovie Wright, Sly Johnson, Quiet Elegance, Ann Peebles e tanti tanti altri della scena appunto di Memphis. Io su questa etichetta che vi ho citato, di Willie Mitchell, la High Records, vi propongo un brano del 1965 che si trovava sul lato B di questo dischetto High, che si intitola That Driving Beat. Lui è Willie Mitchell. Willie Mitchell con That Driving Beat, un beat decisamente incalzante. Con il prossimo pezzo invece ci andiamo ad ascoltare un brano del 1967 stampato su etichetta ABC, un brano molto molto raro che non si trova sul mercato da diversi anni. Io ahimè sono povero, questo brano non ve lo posso far ascoltare su vinile perché la quotazione è a livelli assurdi, ci aggiriamo intorno ai 2000 euro per un 7 pollici, ma qui il discorso etico sul prezzo dei vinili diventerebbe molto lungo e contorto, e di certo non è questa la sede. Io vi faccio ascoltare il file audio o MP3 che dir si voglia di Holy St. James, che si intitola That's No Love. Love, that's not love, that's not love. Questa era Holly St. James con That's Not Love, brano del 1967. Da Holly St. James ci spostiamo ad un'altra voce femminile. La voce in questione è quella di Barbara Randolph. Anche Barbara Randolph l'abbiamo già ascoltata qui più di una volta a Soul Time e continueremo sicuramente ad ascoltarla, perché si tratta di una grandissima voce che ha inciso diversi brani molto molto belli. Barbara Randolph, artista statunitense, nata nel 1942 e scomparsa nel luglio del 2002, è stata una cantante e tra l'altro anche attrice statunitense che ha inciso per la Motown Records durante gli anni 60. Barbara Randolph, nata proprio a Detroit nel Michigan. Ci ascoltiamo per questa ottava puntata di Soul Time qui su Radio Wombat questo brano proprio su etichetta Tamla Motown, questo 45 giri che si intitola I Got a Feeling, brano uscito per la precisione il 24 settembre 1971. Barbara Randolph, I Got a Feeling. Your kind of love can't get enough. E lei era Barbara Randolph con la eccelsa I Got a Feeling. Proseguiamo la nostra selezione di questa sera con Jimmy Ruffin, nato nel 1936 e scomparso 3 anni fa, nel novembre del 2014, un cantante soul statunitense e fratello maggiore di David Ruffin dei Temptation. Jimmy Ruffin ha avuto diversi dischi di successo tra gli anni 60 e 80, nato appunto, come vi dicevo, nel 1936 nel Mississippi, con i suoi fratelli iniziarono fin da giovanissimi a cantare anche loro in un gruppo gospel conosciuto come i Dixie Nightingales. Poi nel 1961 Jimmy divenne cantante come parte della scuderia Motown, principalmente come corista durante le tantissime sessioni di registrazione per questa grande etichetta, ma registrò anche dei singoli per la controllata della Motown, la Miracle Records, ma poi mal per lui lo chiamarono per il servizio militare e quindi la sua carriera è stata interrotta da questa brutta cosa che è il servizio militare. Poi nel 1964 tornò alla Motown, e dove ebbe la possibilità di unirsi proprio ai Temptation per sostituire Eldridge Bryant. Questa sera ci ascoltiamo Jimmy Ruffin con questo brano molto easy listening, un soul molto tranquillo da ascoltare. Ci ascoltiamo He Who Picks a Rose, brano stampato su un'altra controllata, la Soul Records. Jimmy Ruffin, Who Picks a Rose. Beautiful flower, to me the prettiest in the world, and that goes double for a girl, for she's like no other flower in the world. Remember that they're not perfect, you see, but you got to take the bitter with the sweet, and remember that he who picks a rose, now baby, he who picks a rose must accept the thorns it bears. Yeah, the thorns it bears. A rose remains to be pretty if you handle it with care. And that goes double for a girl. Treat her right and her love she'll truly share. But you've got to take the bitter with the sweet. Happy times alone with moments of despair. And remember that he who picks a rose, baby, he who picks a rose must accept the thorns it bears. Oh yeah, the thorns it bears. Jimmy Ruffin su etichetta Soul Records con He Who Picks a Rose. Proseguiamo e passiamo a Johnny Taylor. Johnny Harrison Taylor, scomparso nel 2000, è nato nel 1934, che durante la sua carriera ha vinto 3 Grammy Awards ed ha eseguito un'ampia varietà di generi musicali, partendo dal blues, passando per il rhythm and blues, il soul, il gospel, il pop, il doo-wop e anche la disco music. Cantante originario dell'Arkansas. Questa sera di Johnny Taylor vi propongo questo gran brano stampato su etichetta Stax Records, un'altra etichetta importantissima per tutta la storia della musica soul, etichetta fondamentale quindi su Stax Records. Questo brano del maggio del 1970 di Johnny Taylor, ci ascoltiamo la bellissima Friday Night. Woo! All right. I gotta tell you too. Friday night I rush home with all my pain. I work hard to keep a satisfied in every way. I look forward to a hot meal and a warm embrace. I can hardly wait to see my ever-loving face. Oh, but the moment that I walk through the door, there's a bang scatter on in the middle of the floor. It's a Friday night, she left me. Friday night, I'm a bachelor. Friday night, my baby's gone. Friday night, I'm all alone. Friday night, her smile is cold as ice. She forgot all the things and all of my sacrifice. Girl, for you I walk around with patches on my clothes and my feet on the ground. Now you can stand here and look me straight in the eye and tell me you're gonna put me down. You never know, oh, it really, really took me by surprise. Told me if I knew another guy, that was on Friday night. If my memory serves me correctly, Friday night, you left me. Baby, why did you leave me? You know when you left me, it was gonna grieve me. Oh! Woo! Let me tell you, somebody lost a love on Monday. Somebody lost a love on Tuesday, Wednesday, Thursday, but my day was on Friday. Ow! You know you took me by surprise. You told me if I'm another guy, that's on a Friday night I need you. On a Friday night I don't like to be lonely. My baby left when the eagle fly. Everybody look forward to Friday night. Go and do the popcorn, baby, with the one you love. Now she's gone, I don't know. Oh, baby, on a Friday night, you left me here. I don't know what to do without you, baby. Oh, no. Why did you leave me? You could've took Monday, a Tuesday, but you left me on a Friday night. You know you got my business uptight. Johnny Taylor con Friday Night. Da Johnny Taylor passiamo ai nostri amatissimi Four Tops, questo quartetto vocale statunitense che ha spaziato negli anni dal doo-wop al jazz, al soul, all'R&B, al disco. Grandissimo quartetto americano, appunto, fondato a Detroit e conosciuto inizialmente come i The Four Ames. il cui cantante principale Levi Stubbs, insieme a Abdul Duke Fakir, Renaldo Obel Benson e Lawrence Payton, sono rimasti in attività per 4 decenni. Hanno lavorato per tante etichette discografiche di grande importanza come la Red Top, la Riverside, la Columbia, la Motown, ABC, e hanno pubblicato fino adesso 32 album e sono in attività da più di 40 anni. Dei Four Tops ci andiamo ad ascoltare questa stampa, ristampa del 2014 su Soul Records, che sì, è questo brano che si intitola Sweet Was the Love. Loro sono i The Four Tops. Four Tops con Sweet Was the Love. Il prossimo brano che ci ascolteremo è di un gruppo chiamato Bill Black's Combo. Bill Black's Combo, nati appunto da un'idea di Bill Black, un artista nato a Memphis nel 26 è scomparso molto molto giovane, appena nel 1965, un musicista statunitense noto per le sue tante collaborazioni con Elvis Presley. Come vi dicevo, William Black, nato appunto a Memphis nel Tennessee nel 26, figlio di un suonatore di banjo che iniziò a strimpellare la chitarra a 14 anni. E a 16 anni già si esibiva nei locali notturni della città del sud degli Stati Uniti, eseguendo pezzi di genere honky tonk. Poi nel 1954 avverrà una svolta importante per la sua carriera, si aggregherà a Scotty Moore ed Elvis Presley fondando i Blue Moon Boys. Poi successivamente Elvis inizierà, come tutti sanno, insomma, una carriera solista molto molto importante, ma verso la fine dell'esperienza dei Blue Moon Boys, sia Scotty Moore che Bill Black iniziarono, insomma, a soffrire di vivere nell'ombra della figura ingombrante di Elvis Presley, e pian piano con un po' di sofferenza lasciarono questo gruppo. Poi Scotty Moore in realtà rientrerà nei Blue Moon Boys e continuerà a collaborare con Elvis Presley, mentre Bill Black fonderà appunto la Bill Black's Combos, di cui diventa il leader e bassista. Di Bill Black e i suoi Bill Black Combos ci andiamo ad ascoltare questo strumentale molto molto bello che si intitola Little Queenie, strumentale stampato su etichetta High Records. Vi ho già parlato della High Records quando ci siamo ascoltati il brano di Willie Mitchell, che era appunto il proprietario, il direttore artistico della High Records. Sempre su High Records ci ascoltiamo questo strumentale del 1964 dei Bill Black's Combos che si intitola Little Queenie. Little Queenie. Prossimo brano, abbiamo Arthur Wright and His Orchestra con questo pezzo che si intitola If I Could Turn Back the Hands of Time, stampato su etichetta Modern Records, brano del 1976, quindi siamo verso la fine degli anni 70. Ed è un brano molto molto noto agli amanti, ai cultori e ai collezionisti del Northern Soul. Quindi ascoltiamoci Arthur Wright e la sua orchestra con questo inno Northern. We'll be right back. grandissimo, grandissimo strumentale stampato sul lato B, mentre sul lato A si trovava la parte vocale cantata dal grandissimo Vernon Garrett, appunto, If I Could Turn Back the Ends of Time. Il tempo scorre, ci andiamo ad ascoltare Calvin Scott, abbiamo il tempo per un paio di brani prima di interrompere la nostra trasmissione. Vi propongo Calvin Scott con questo brano del 1972 su questo LP che si intitola I'm Not Blind, I Just Can See, registrato al Wolfram Jack Studios. Quindi Calvin Scott con il brano Can I Get a Witness? Calvin Scott, Can I Get a Witness? L'influenza gospel, direi, con un'influenza gospel molto molto importante. Ci è rimasto il tempo per un ultimo brano, chiuderemo con i The Frank Pop Ensemble. Prima di presentarvi quest'ultimo brano, vi ricordo che Soul Time va in onda su Radio Wombat tutti i mercoledì alle 19, in replica il venerdì mattina alle 10 e il sabato sera alle 21, sempre e solo qui su Radio Wombat. Come al solito vi ricordo anche che è possibile ascoltare il podcast della puntata appena andata in onda e in generale di tutte le puntate di Soul Time che vengono trasmesse sul sito, direttamente sul sito di Radio Wombat, radiowombat.noblogs.org, dove trovate Soul Time ma tutte le altre trasmissioni che vanno in onda sulla radio del Wombato. Quindi dicevamo, ci ascoltiamo l'ultimo brano, un brano molto molto recente, brano uscito nel 2004 di una band tedesca. Non sono un grandissimo amante del cosiddetto new soul, anche se è un genere troppo generico, una definizione troppo generica che non mi piace, però ho trovato questo brano che trovo sicuramente interessante, della The Frank Pop Ensemble, che era una band tedesca di Düsseldorf, band che si ispirava allo stile soul degli anni 60. Ha avuto un percorso musicale abbastanza breve, è stata fondata appunto da Frank Pop, che era l'unico membro permanente di questa band, e poi supportato di volta in volta da diversi musicisti, band che appunto, come vi dicevo, è durata molto poco, si è sciolta già nel 2008 ed ha avuto il tempo di pubblicare 5 album, ma all'interno di questi 5 album spesso venivano poi ripresi e ristampati brani magari pubblicati precedentemente. Vi propongo dei The Frank Pop Ensemble, questo brano appunto decisamente di ispirazione anni 60, anche se il suono contemporaneo, come giusto che sia, poi non è affatto mascherato. Ci andiamo ad ascoltare Break Away. Io vi saluto e vi rinnovo l'appuntamento a mercoledì prossimo alle 19 qui su Radio Wombat. Ever grow here, and I'm getting sucked down more and more each day. For a long time now, I've known it's time to go, but it ain't easy, baby. It's not easy, baby. Oh, it's never easy. Yes, I know it's hard. Just gonna leave you, baby. It's not easy, baby. I know we'll never go, but you know it's time to wake away. Sleeping.